piccola tribù delle zingare dall'occhio nero. Leggimi sulla mano tu, se m'aspettano gioia e piacere, non mi nascondere la verità. Il mio destino voglio sapere se questo cuore vivrà d'amore sul mio cammin, se brillerà e fiorirà la felicità. Spiegami questa mia vision che scombussola sogni e pensier. Luccica una stella d'or che spegnendosi va sul sentier, mentre una lampada s'è spenta già. Il mio destino voglio sapere se questo cuor vivrà d'amore sul mio cammin, se brillano ancora come in un fior la mia stella d'oro. Zingara, questa mano tu non puoi leggere senza tremar. Gridami che la schiavitù di quest'anima non può durar. No, più non leggere, basta così. Del mio destino non può sapere l'oscurità. Meglio sarà la mia passione, mi brucerà, ma lei non sa e giammai saprà. Zingara, questa mano tu non puoi leggere, no.